Se la Cassazione decide che un uomo nudo sulla spiaggia offende il comune senso del pudore, il Corriere della Sera illustra l'evento giurisprudenziale pubblicando una fotografia dove due fanciulle passeggiano sull'arenile con i floridi seni al vento. Per chi fa i giornali, l'analogia concettuale è sufficiente, ogni scusa è buona. Se questo è l'uso della fotografia, verrebbe da pensare che l'uso delle vignette disegnate sia più sano. A maggior ragione se si pensa che spesso alla fotografia viene associata la strana idea che essa rappresenti la realtà delle cose e che come tale sia qualcosa di più della parola, di più ricco, di più affidabile, e non invece il risultato di parecchi processi selettivi, faziosissimi come quelli che governano le parole, che vanno dal punto di vista del fotografo a quello dell'impaginatore. Tuttavia, anche le vignette offrono buona materia di riflessione, perché oltre a quelle dedicate alla satira politica, vabbè, di cui ogni giornale sembra non poter fare a meno, nella speranza di apparire agli occhi dei lettori meno servili di quanto i testi scritti non dimostrino d'abbondanza, la vignetta, nella modica dose di una al giorno, la vignetta finisce con il contrassegnare sempre una certa tipologia di notizie. E in ciò dimostra anche tutta la sua patologia. Non è questione di campi del sapere, perché una vignetta può essere indifferentemente dedicata a vicende sociali, politiche, culturali, scientifiche, artistiche. Non è questione di limiti etici, perché una vignetta può essere indifferentemente dedicata a fatti divertenti o tragici. Ma è questione di categorizzazione degli elementi narrativi che sono chiamati a costituire la notizia stessa. Se da un rapporto posto fra due o più di questi elementi può risultare una sorta di paradossalità, una stranezza, un'esotericità, una bizzarria, ecco allora scattare prepotentemente, forse nell'inconsapevolezza di chi decide e di chi esegue, ecco scattare prepotentemente la necessità di una vignetta. A New York una zanzara assassina va in giro iniettando un virus potenzialmente letale. Si contano già 3 morti e 60 persone infestate in trepida attesa di sapere qualcosa del proprio immediato destino. La salvifica disinfestazione è affidata agli elicotteri. L'occasione è buona per disegnare allora la statua della libertà che balla sul piedistallo cercando di scacciare le zanzare moleste. Da ridere non c'è un granché, ma il contrasto tra la minuscola zanzara e l'alto valore simbolico della città di New York con i suoi elicotteri è troppo ghiotto per trascurarlo. I morti poi, vabbè, a quanto pare sono morti anziani, appartengono dunque a una categoria che non esige molto rispetto e che per definizione di chi si sente giovane in perituro allo stato di morti dovrebbero passare rapidamente e senza traumi eccessivi. Che il paradossale, lo strano, l'esoterico, il bizzarro siano tali soltanto in virtù di uno schema ideologico che pretende di prescrivere il normale corso degli eventi umani sul pianeta, che ogni evento in fin dei conti ha la medesima legittimità storica e cronachistica di un altro, è una consapevolezza che stride con quel paradigma ideologico dei giornali che li vorrebbe nati apposta per cogliere le deviazioni dalla linearità di uomini e cose. Si comprende così perché una vignetta se la sia guadagnata anche la notizia relativa a quella studentessa bosniaca dell'Università di Sarajevo che insieme ad altre 600 ragazze è finita in una retata effettuata dalla polizia sui marciapiedi di Roma. Il paradosso che la concerne non prende in considerazione il fatto che la fanciulla a quanto pare non fosse lì per il giubileo, ma invece il fatto che al momento del fermo fosse stata sorpresa mentre leggeva un'opera di Kant, che poi i verbali di polizia hanno dimenticato di precisare. Vabbè, che una studentessa dell'Università di Sarajevo legga Kant è ovviamente auspicabile, quanto almeno è deprecabile che una studentessa di qualsiasi università sia costretta a prostituirsi. Ma che una studentessa che si prostituisce non smetta nell'atto stesso del prostituirsi di essere studentessa e quindi prosegua a leggersi il suo Kant, a chi detta le norme per la storia altrui non sembra ammissibile. In Inchiesta pericolosa, Detective nell'originale, un film che Gordon Douglas diresse nel lontano 1968, Frank Sinatra, Detective, si intrufola nella conversazione di due amiche all'uscita da un teatro e, a domanda, risponde che lui segue volentieri due autori, O'Casey e Shaw. Una delle sue interlocutrici, quella a cui era stato presentato giusto pochi minuti prima, gli replica piuttosto duramente: non mi piacciono i poliziotti colti, o qualcosa del genere. Avrebbe anche potuto aggiungere che non le piacevano i poliziotti di sinistra, perché Sean O'Casey e George Bernard Shaw furono due scrittori irlandesi, nati entrambi a Dublino, il primo nel 1880 e il secondo nel 1856, entrambi soprattutto commediografi, due scrittori irlandesi un po' anarchici e un po' comunisti, quanto di più improprio e disdicevole per suscitare la passione di un poliziotto americano modello. La Farg, in quel diritto all'ozio, che ricordo spesso, annovera poliziotti e prostitute fra le professioni ideologiche, ovvero fra coloro che non prendono parte attiva ai processi produttivi. Farebbero loro compagnia i magistrati, i preti, gli artisti e gli scienziati. Ma a ben pensarci, poliziotti e prostitute condividono una peculiarità che agli altri è negata. Il caso della prostituta che legge Kant e il caso del poliziotto che ama il teatro irlandese di protesta, nel fatto che per qualcuno costituiscano un paradosso, confermano che in questa organizzazione sociale figurano persone cui l'ideologia borghese non concede né una cultura propria e neppure la partecipazione a nessun titolo della cultura messa a disposizione di chiunque. Mentre non è ritenuto confacente che una prostituta legga Kant in attesa dei clienti, è ritenuto confacente che un pedofilo legga il giornale. Non il giornale in senso generico, ma quel particolare quotidiano che nella presunzione di una rappresentanza che non può avere si è scelto questo titolo. Protestano i giornalisti del giornale e protestano contro la RAI, colpevole di aver messo in mano il loro quotidiano ad un personaggio fortemente caratterizzato in senso negativo. E non sarebbe la prima volta. Già in precedenza, nella lunga serie di Un medico in famiglia, un padre autoritario, maschilista, fedifrago, un po' tonto anche, veniva mostrato mentre leggeva il giornale. Ora, nella serie poliziesca della squadra, un pedofilo napoletano passeggia con il giornale in mano e la cosa a quelli del giornale sembra strana e offensiva, subdola, anche perché i pedofili napoletani dovrebbero leggere i quotidiani di Napoli e non quelli di Milano. Lì si può capire, ma lì si capirebbe molto di più se avessero il coraggio di chiedersi perché mai siano finiti dove sono finiti. In entrambi i casi, evidentemente a parere di qualcuno, a parere degli sceneggiatori, del regista, di chi ha provveduto l'attore di quel particolare segno distintivo, di chi gliel'ha messo in mano, insomma, il giornale, a parere di qualcuno, era nella gamma delle possibilità offerte dalla cultura dei due personaggi. qualche anno fa avrebbero anche potuto avere fra le mani Famiglia Cristiano, l'Osservatore Romano. Mentre in grazia del noto assunto che vuole che i comunisti i bambini li mangino ma non li sevizino, ben difficilmente diciamo che dai propri presupposti ideologici sarebbero stati condotti a comprarsi il manifesto. Il rapporto fra il cliente e la sua merce non è mai casuale, tanto da far pensare che se Berlusconi riuscisse a rendere l'elettorato attivo soltanto i clienti delle prostitute, possibilmente di quelle che non leggono Kant, stravincerebbe in tutte le elezioni. Nella seconda serie di Un medico in famiglia, in una delle prime puntate, ad una bella fanciulla in fiore casca di mano Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevskij, uno che bollato come sovversivo si fece 4 anni di lavori forzati. Se il libro fosse cascato dalle mani di detta fanciulla nel 1867 o giù di lì, la sua fresca e beata innocenza sarebbe stata messa in dubbio da più di uno. Oggi, invece, lo stesso libro le ha scritto a virtù e le serve per far battere il cuore di un bel ragazzo che si innamora di lei. Abbiano dunque pazienza quelli del giornale. Si tratta di aspettare.